Termos, il quotidiano di informazione musicale di Città del Capo, Radio Metropolitana. In studio fino alle 22.30, Jonathan Clancy e Michele Restuccia. Poco dopo le 21, benvenuti al Termos del lunedì, in questo caso di lunedì 17 gennaio, ai microfoni Jonathan Clancy, un saluto a Michele Restuccia che non sarà con noi questa sera, ma torneremo in onda assieme lunedì prossimo con anche Chiara e Marta di Moon Talk per una puntata insomma a tre, anzi a quattro voci. Termos del lunedì, come sempre in questa fascia, dalle 21 alle 22.30, tutte le sere, dal lunedì al venerdì e poi il sabato, 15.30-17.30, lo spazio con Giovanni Gandolfi, Giovanni Cattabriga. termos.rcdc.it è il sito invece per guardare le scalette, le playlist delle puntate, troverete anche quella di questa sera subito dopo la fine del programma e potete anche andare ad ascoltare, anche a scaricare in alcuni casi, le puntate degli altri conduttori. In particolare vi segnalo l'ottimo lavoro di Alarico Mantovani che andrà in onda domani sera nel Termos del martedì. Per quanto riguarda le classifiche di fine anno, si è divertito moltissimo, ha messo sia la puntata insomma sui dischi dell'anno del 2010, trovate un bel post con i 10 album e poi insomma quelli che non ce l'hanno fatta ma che comunque sono stati molto suonati da lui nel corso del 2010, e poi trovate anche una classifica che riguarda i migliori EP singoli 7 pollici. Devo dire che sono particolarmente legato a questa classifica perché effettivamente anch'io ho trovato quest'anno molti singoli 7 pollici e formati particolari, quindi non solo album, che hanno sostato un bel po' di tempo sul mio stereo. Noi partiamo proprio confermando questa tesi con un 7 pollici, un 7 pollici split con 4 band che esce per l'etichetta di Brighton Faux Pas. Credo sia proprio l'etichetta della band che partecipa a questo disco, ovvero i Cold Pumas. Cold Pumas che invitano vari amici, tra cui i canadesi Women, i canadesi Friendo e l'altra band inglese Fair Oz. Quindi sono 4 band. Noi volevamo proporvi la traccia dei Women e poi anche quella dei Friendo, che sono due band legate perché Michael, batterista dei Women, suona anche nei Friendo, che sono una band decisamente diversa, più pop punk e meno articolata diciamo delle musiche dei Women. Women band che ha pubblicato nel 2010 sicuramente uno dei nostri dischi dell'anno, ovvero Public Strain per la Jack Jaguar, band che ha avuto un finale diciamo di anno un po' turbolento perché si sono sciolti o comunque hanno preso una pausa dopo la fine del loro tour americano, mi pare a novembre era uscita la notizia con una sorta di scazzottata sul palco eccetera eccetera. Noi però insomma siamo interessati poi alla fine alla musica, e anche se il titolo di questo brano è Bullfight, loro sono i Women da questo split con 4 band sulla Faux Disc. Questa si chiama Bullfight. We'll be right back. Questi erano dunque Women, Bullfight si chiama la traccia in questo split con Friend of Pharaohs e Cold Pumas, e proprio la traccia dei Friend è quella che ci andiamo ad ascoltare dopo, si chiama Past Times, anche loro sono una band canadese, ne parliamo magari dopo. Queste Past Times, loro sono i Friend. Bye. Questi erano dunque Friend of Past Times, traccia inclusa in questo singolo Women Friend of Pharaoh's Cold Pumas, che si trova sull'etichetta Faux Pas, etichetta inglese di Brighton, proprio come la band Cold Pumas. Andiamo avanti invece con la musica qui al Termos di lunedì. Andiamo a riscoprire un vecchio amico, si chiama Phil Manley. Lui è il fondatore, diciamo, della band Trans Am, la band di DC, è molto amata sicuramente qui a Città del Capo. Era da un po' che avevamo perso le loro tracce. Phil negli ultimi anni credo si sia trasferito sulla costa ovest, dove fondamentalmente registra tantissime formazioni nel suo studio. Ha lavorato con band da Lionel, dai Fucking Champs a Wooden Ships, Munduo, Miami e tantissime altre cose. E finalmente la Thrill Jockey, l'etichetta che seguiva anche i Trans Am, pubblicherà il suo nuovo lavoro tra un paio di settimane, credo proprio a fine gennaio. Phil Manley ha deciso di intitolare il suo disco Life Coach, ed è sicuramente un tributo ai suoni che ha sempre amato, che già comunque erano apparsi all'interno dei lavori dei Trans Am, ovvero il krautrock, il rock tedesco, insomma le sonorità tra noi, Kraftwerk, Cluster, Popol Vuh, eccetera eccetera. Noi ci ascoltiamo una traccia abbastanza elettronica da questo disco, si chiama Life Coach, proprio come l'album. Lui è Phil Manley. Questo era dunque Phil Manley, fondatore, ricordiamo, storico dei Trans Am. Mi sembra insomma abbastanza in linea con quello che faceva nei Trans Am, in particolare con gli ultimi dischi, penso ad esempio a TA o insomma i lavori che erano usciti proprio prima. Insomma, non so se poi la band in realtà si è sciolta o meno, comunque questo è il suo nuovo percorso. Phil Manley, si chiama Life Coach, l'album che uscirà per la Thrill Jockey, quindi etichetta che ha sempre seguito. Sul sito della Thrill Jockey trovate anche un racconto di come è stato registrato il disco, con tutta una serie di strumenti insomma nuovi all'interno della sua sala prove, molti regali anche da amici, ad esempio il synth, insomma il Krumar che ha utilizzato, è stato regalato proprio da John McIntyre, produttore a volte di Trans Am, nonché batterista, ricordiamolo, dei Tortoise. Invece cambiamo, rimaniamo però in Costa Ovest per parlare dei Royal Baths, band che ha debuttato sul finire del 2010, ci siamo un po' persi questo lavoro, Litanies, che esce per etichetta però, per cui siamo sempre molto attenti, la Woodsist, Litanies dei Royal Baths, un lavoro insomma che va a ripescare nel garage ma anche nelle melodie psichedeliche degli anni 60, in qualche modo comunque sì, una Summer of Love, però una Summer of Love molto scura, mi viene da dire, un disco abbastanza chitarristico e anche ossessivo in alcuni brani, abbastanza malato, così non lontano secondo me anche da alcune uscite in The Red. Noi da questo lavoro dei Royal Baths ci andiamo a sentire la traccia numero 2, si chiama Nicky Don't, loro sono i Royal Baths qui al Thermos del lunedì. Sleep around and lean on old friends when she's down. Dicky Don't, loro sono Royal Baths, un disco che vi consiglio caldamente, Litany su Woodsy, se vi piacciono le atmosfere, insomma, vicine anche in qualche modo ai Velvet Underground, al pop anni 60, psichedelico. Woodsy è l'etichetta che lo pubblica, etichetta che sicuramente ritroveremo nella seconda parte di questo Termos del lunedì, perché parleremo della nuova uscita di DuckTales. Andiamo avanti, andiamo in questo caso invece, sicuramente farà piacere anche al Michele se è all'ascolto, in Venezuela per parlare di Algodón Egipcio, questo credo il nome, non so se l'ho pronunciato bene, probabilmente no, è il nome che si è dato il musicista venezuelano Ezequiel Berto, un musicista di Caracas che pubblicherà a breve un lavoro per l'etichetta americana Lefs, l'etichetta che ci ha portato insomma i Neon Indian. È un lavoro che va a pescare, diciamo, ormai come siamo abituati ampiamente negli ultimi anni, dalla commissione tra folk, pop, pop sognante e ritmiche dance, insomma, ha veramente un grande calderone di anche influenza il musicista, perché proprio in un'intervista cita artisti come, da una parte Destiny's Child, ma dall'altra il noise, ad esempio, di Lightning Bolt, eccetera, eccetera. Quindi insomma siamo curiosi di ascoltare il disco di debutto, che dovrebbe uscire se non sbaglio intorno a marzo, metà marzo. Si chiamerà La Luce Costante, questo è il nome del disco. Lui è Algodón Egipcio, che credo voglia dire cotone egiziano, dovrebbe essere proprio la traduzione. Il disco è stato scritto dopo che questo ragazzo molto giovane ha fatto un viaggio in Brasile, a Sao Paulo, poi tornando a Caracas ha scritto il disco nella sua stanza. Insomma, è stato registrato in pochissimo tempo, credo in metà settimana, insomma, chiuso 24 ore su 24, e devo dire che suona molto bene, con diciamo elementi quindi di elettronica, anche di dance, anche di folk. Questa che andremo a ascoltare si chiama Los Asuntos Pendientes, Algodón Egipcio, è una delle canzoni sicuramente più organiche a livello del disco, anche più pop. If you say you love me, then I am all of you. When you offer love, be, then I am all of you. And if you say you love me, then I am all of you. When you offer love, be, then I am all of you. Questo è Nicholas Jar che remixa The Bees con la loro Winter Rose. L'abbiamo messa insomma per ascoltare soprattutto la musica di Nicholas Jar, musicista americano, però via Santiago del Cile. Lui è un po' fa parte insomma della balotta dei Wolfram Lamb che abbiamo ascoltato anche spesso qui al Termos lunedì, grazie anche alle sapienti mani di Michele. Nicholas Jar arriverà adesso tra breve a Bologna, almeno così al momento non trovo informazioni sul sito del Locomotive, però la data è segnata sul sito di Nicholas Jar, dovrebbe essere il 28 gennaio la data. Vedremo, visto che è in uscita anche il suo primo lavoro dopo tantissimi remix, EP, 7 pollici eccetera eccetera, il suo primo vero e proprio lavoro, insomma un disco intero, uscirà o è uscito in questi giorni Nicholas Jar. Andiamo avanti con la musica qui al Termos del lunedì e lo facciamo tornando, come avevamo detto, all'interno della casa Woodsist, DuckTales 3 Arcade Dynamics. Questo è lo strano titolo del suo nuovo album, un disco che esce in questi giorni. DuckTales è il progetto di Matthew Mondanile, chitarrista anche dei Real Estate, insomma musicista con molte collaborazioni già alle spalle per la giovane età di 22 anni. Ha fatto uscire svariati dischi su etichette come Old English Spelling Bee oppure la Not Not Fun o anche sempre la Woodsist. In questo caso il nuovo lavoro è un decisamente meno un collage di suoni come era Landscapes, il disco precedente. Ci sono sicuramente più canzoni, come è questa Killing the Vibe che ci andiamo ad ascoltare, che tra l'altro nel vinile vede la collaborazione anche di Panda Bear e di altri musicisti. Questo è dunque DuckTales, Killing the Vibe dal nuovo lavoro 3 Arcade Dynamics. Sit. dunque DuckTales Killing the Vibe, un disco in uscita per Woodsis, ne parleremo ancora nelle prossime settimane a Termos. Intanto un altro disco in uscita è quello di Banger Freak Out, a cui avevamo già ascoltato la traccia 105, adesso è la traccia numero 2 che invece si chiama Go Ahead per Banger Freak Out. Disco registrato a New York per Banger Freak Out, negli studi di Nicholas Vann, che già aveva assistito Animal Collective, Spoon e anche Deer Hunter, un disco senza titolo che uscirà per Memphis Industries, è proprio la Rare Book Room che lo farà invece uscire in America. Invece un altro lavoro che attendiamo con molta curiosità è il nuovo disco dei Papercuts, band che con questo lavoro fa un salto di qualità, nel senso che si accasa su Sub Pop, e tra l'altro forse era proprio Memphis Industries che prima faceva uscire il loro dischi. Paper Cuts, che sono, diciamo, la formazione che ruota intorno alla mente di Jason Robert Quaver, un songwriting molto, molto classico anche per quanto riguarda la registrazione, non troppo lontano insomma dalle cose che facevano ad esempio Phil Spector, oppure chiaramente i Beach Boys, come sempre insomma influenza di molti gruppi californiani anche in questo momento. Paper Cuts si chiamerà Fading Parade il disco, in uscita a marzo, e il singolo che lo anticipa, già che esce in questi giorni, si chiama Do What You Will. Loro sono i Paper Cuts. Questi erano dunque Paper Cuts dal nuovo lavoro, si chiamerà Fading Parade, Do What You Will, mentre invece un altro disco in uscita in questi giorni è quello di Dirty Beaches, Sweet 17, la traccia che ascoltiamo. Just a moment, turn on the tide. Sweet 17, lui è Dirty Beaches, Badland si chiama questo nuovo lavoro, sicuramente ha un po' un debito con i Suicide, un disco che però che vi consiglio, insomma ci sono tracce abbastanza diverse tra di loro all'interno di questo lavoro, Zoo Music è l'etichetta che lo pubblica. Invece un altro artista che andiamo a ripescare è Destroyer, ovvero Dan Beyer, artista canadese che pubblica il suo decimo album, Caput si chiama, per la Merge. E questa è una traccia che sta proprio a metà del disco, si chiama Suicide Demo for Kara Walker, lui è Destroyer qui a Thermos del lunedì. White translucent business passes for love these I see the North Star, I look up, I see the North Star. When I look up at the bar through these tears, fall like pillars Yankee style. All of America loves to light its pipes. All of America live to light his pipe at night. To which Dixie responds, free. Questa era dunque Dan Beyer, una traccia molto lunga, Suicide Demo for Kara Walker dal suo nuovo album Caput. Vi ricordo che state ascoltando Il Termos del lunedì ai microfoni Jonathan Clancy fino alle 22.30 circa, poi daremo spazio ad Alberto Antonini con la sua Luna nel Pozzo. Destroyer, che arriva con questo disco, il suo decimo, credo, disco del 2011, insomma, suo decimo lavoro in assoluto. L'anno scorso era uscita una collaborazione con Tim Hacker, che si chiamava, credo, Archer on the Beach. Sì, erano due tracce, una con Loschill e un'altra con Tim Hacker, dove si intuivano magari anche alcune delle possibili diramazioni di Destroyer. Credo che tra l'altro la canzone Bay of Pigs, invece, che era un altro EP uscito nel 2009, e si è contenuta sia la traccia finale di questo Caput, in versione un po' più corta, insomma rimaneggiata. Comunque un disco molto diverso, dove Destroyer torna diciamo con una strumentazione differente. Sicuramente ci sono influenze dagli anni 80, quelli anche più languidi, sentite spesso l'uso del sax. Dice che comunque voleva fare un disco meno organico, meno suonato, con molte parti di synth, e insomma ci è riuscito secondo me anche piuttosto bene. Ricordiamo che Destroyer anni fa aveva addirittura fatto un disco, credo si chiamasse Your Blues, con una strumentazione MIDI che simulava un'orchestra. Era abbastanza estraneante come effetto. Your Blues, disco del 2004 di Destroyer. Andiamo avanti invece con un disco ripescato, un disco che si intitola Lost, per la musicista polacca Ella Orleans. Ha un lavoro dal titolo Lost. Anche lei ha collaborato con il musicista che ascoltavamo prima, Dirty Beaches. Lost però è un disco che per la etichetta francese La Station Radar. Noi ci ascoltiamo la traccia Better Friends. Lei è Ella Orleans qui al Termos di lunedì. Ella Orleans, Better Friends. Lei è una musicista che suona il violino come molti altri strumenti, e ha un metodo insomma compositivo vicino a Dirty Beaches, quindi insomma loop con cui poi costruisce sopra una canzone pop. Il suo disco era Lost, in uscita per la Station Radar. Invece andiamo a recuperare un altro disco del 2010, ovvero il disco di White Fence, sempre su Woodsist. In questi giorni uscirà il lavoro nuovo che si chiama Is Growing Faith. White Fence è il progetto di Tim Presley, il ragazzo californiano che suona nell'ultimo disco dei Fall, quello su Domino, oppure anche con i Strange Boys. In questo caso è da solo, e questa è la traccia che apre il suo disco di debutto. Si chiama Mr. Adams, lui è White Fence. Yeah. E questi invece erano Reading Rainbow dopo l'ascolto di White Fence. Reading Rainbow che con la loro Animals Take Control of Me, due moglie e marito, che è uscito da poco con un lavoro che si chiama Prism Eyes per l'etichetta di Chicago Hozak Records, un bel lavoro insomma che va ascoltato, sicuramente meno diretto di artisti a cui vengono paragonati come Best Coast, Dum Dum Girls, però insomma un disco che merita, è registrato tra l'altro anche abbastanza bene nello studio Minor Street a Philadelphia. Invece una cosa che volevo segnalarvi è purtroppo è un mixtape dedicato a Trish Keenan che è scomparsa prima del weekend, ricordiamo, la voce insomma musicista dei Broadcast, ne abbiamo parlato in radio negli scorsi giorni, difficile, molto difficile insomma commentare queste notizie. Sicuramente Broadcast è uno dei gruppi in assoluto più amati qui da Città del Capo, molto anche trasmessi da tutti gli DJ insomma del Termos e non solo. E una cosa però insomma curiosa anche che volevo segnalarvi è il post che ha fatto gorillaversusbear.net, il blog che ha messo su un mixtape che Trish Keenan aveva fatto per un'amica poco tempo fa, si chiamava Mind Bending Motorway Mix, anzi si chiama così, e potete scaricarlo in questi giorni andando sul sito di Gorilla vs Bear. Oh How I Miss You, loro erano Broadcast qui al Termos lunedì. Noi chiudiamo la puntata di oggi con l'ascolto dei Yak con la loro Sunday tratta dal nuovo lavoro su Fat Possum. A lunedì prossimo.